Stavo pensando come, su come orientare le nostre meditazioni di questi giorni e un'idea che mi è venuta è di approfittare del tempo pasquale e quindi di orientarci, perlomeno inizialmente, molto sui Vangeli che parlano delle apparizioni di Gesù. Il tempo pasquale, voi sapete che è il tempo in cui noi viviamo proprio in modo cronologicamente esatto una parte della vita di Gesù, che è proprio la parte del tempo in cui lui, dopo la sua risurrezione, è apparso agli apostoli. E questi 40 giorni di apparizione di Gesù, di stare con lui, noi li viviamo in modo completo. Altri aspetti della vita del Signore, noi durante l'anno liturgico li viviamo in modo più concentrato, no? Pensate, noi riviviamo tutta la sua vita a partire dall'annunciazione, quando lui ha cominciato a vivere nel grembo di Maria sua madre, poi viviamo la sua nascita, viviamo anche il tempo di Natale, quindi ci godiamo quei giorni cercando di vivere come Maria e come Giuseppe, quei giorni di gioia dell'incarnazione del Figlio di Dio con i pastori e quei pochi che l'hanno conosciuto. Poi dopo viviamo il tempo ordinario in cui noi riflettiamo la vita nascosta di Gesù, la vita ordinaria, gli anni di Nazareth. Però anche quelle sono alcune settimane, sono tante settimane, ma non così tante come quelle che lui ha vissuto a Nazareth. E invece il tempo, ecco, i giorni della passione, morte e risurrezione, noi li viviamo come se fossimo in tempo reale, no? È giovedì santo, l'Eucaristia, venerdì la passione e la croce, il sabato santo del sepolcro, la domenica della risurrezione e dopo i 40 giorni in cui Gesù è rimasto con i suoi. Certo, in un modo diverso da prima, quindi lui appariva e poi scompariva di nuovo, come per abituarli ad un rapporto con lui diverso. Non, dovevano poco a poco abituarsi a non averlo più visibile, vicino, no? Poterlo più toccare, abbracciare, insomma, a non ascoltare più la sua voce. Però in questo il Signore li ha abituati gradualmente e così anche li ha abituati alla sua nuova realtà, a questa umanità risorta, quindi un'umanità trasfigurata, nuova, che loro, i discepoli, gli apostoli, testimoni di questa sua risurrezione, avrebbero dovuto passare a tutti noi. Infatti è arrivata fino a noi la notizia che Cristo è risorto. E questo è l'annuncio essenziale della nostra fede. Dice San Paolo: se Cristo non è risorto, la nostra fede è vana. Tutto il resto potrebbero essere cose molto belle, ma noi invece crediamo in Cristo risorto e vivo e lo annunciamo. E non solo crediamo in Cristo risorto e vivo e lo annunciamo, ma siamo consapevoli di essere noi stessi, ciascuno di noi, inseriti nella sua vita. Quindi nella sua vita di risorto. E quindi ciascuno di noi ha già dentro di sé il seme della risurrezione, della vittoria sulla morte. E abbiamo in noi la potenza di Cristo risorto che ci arriva attraverso la fede e attraverso i sacramenti, che sono forze che escono dal corpo di Cristo e che ci danno la vita, ci danno la sua vita soprannaturale. Allora, noi facciamo questo tempo di, viviamo questo tempo di preghiera, di vicinanza con Cristo risorto in questi giorni di ritiro, e ci conviene avere lo sguardo verso il puntato su di lui, no? Verso di lui, in qualche modo, come leggevamo all'inizio della bolla del Giubileo straordinario della Misericordia, Misericordia Vultus, no? Che è uscita da poco, il Papa ha fatto conoscere proprio nel giorno della Divina Misericordia, nella seconda domenica di Pasqua. E il Papa comincia queste parole così belle, così dense, con questo documento, con le parole: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. E pensavo che un tema bello e di fondo di questi giorni possa essere il volto di Cristo. Cerco il tuo volto, no? Vultum tum domine requirem, no? Una parola dell'Antico Testamento che prende tanto significato proprio nell'incarnazione del Verbo di Dio. E il Signore è come se avesse risposto a questa richiesta: cerco il tuo volto, Signore, e ci ha fatto conoscere il suo volto in Gesù, il volto che è un volto di misericordia. E se volete, ciascuna di voi può identificarsi, prendere il posto, mettersi insieme con le donne che seguivano Gesù fin dall'inizio. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea. Forse vi ricordate che mi pare l'anno scorso, o non so se insomma, nella prima o seconda Pasqua che il Papa Francesco ha vissuto, a un certo punto ha fatto una bellissima riflessione o meditazione o omelia sulla Galilea, cioè sul fatto che Gesù dice ai suoi discepoli che li avrebbe rivisti in Galilea, cioè gli angeli anche dicono alle donne che li vedono di dire ai discepoli che Gesù li avrebbe aspettati in Galilea, li avrebbe rivisti in Galilea. E il Papa faceva questa riflessione, no? Che la Galilea era l'inizio della loro vocazione, era l'inizio della loro storia con Gesù, e incoraggiava tutti noi, tutta la Chiesa, a coltivare la memoria della nostra Galilea. In effetti, e questo potrebbe essere un primo punto della nostra preghiera. Gesù ci aspetta in Galilea, che è dove è cominciata la nostra storia con lui. È lì dove Pietro e Andrea sono stati, e Giacomo e Giovanni sono stati chiamati a seguire anche altri. e dove è cominciato tutto. Il Papa diceva che a volte a noi serve proprio tornare agli inizi della nostra chiamata, della nostra vocazione. E nei racconti, no, di alcuni di voi o di tutti noi, se ciascuno di noi potrebbe parlare ad alta voce della propria storia, lo diceva San José Maria in una meditazione, nell'omelia sull'Avvento, no? Dice, se ciascuno di noi parlasse ad alta voce, raccontasse la propria storia, tutti ci renderemo conto che è una storia divina in cui Dio è intervenuto. Chi è che ci ha chiamato a seguirlo così da vicino? È stato proprio Lui. Non senz'altro, ovviamente, si è servito del fatto che nella nostra nazione, nella nostra civiltà, il cristianesimo è molto presente, la Chiesa è molto diffusa, no? Che anche se in molti aspetti viviamo ovviamente un tempo di secolarizzazione cosiddetta, no? Però la tradizione è presente, quindi senz'altro il nostro Signore si è servito di questo, dei nostri genitori, di amici, di conoscenti, di circostanze, no? Di cui noi siamo molto grati, no? Piccole circostanze, no? che sembrarono allora casuali e non lo sono. Dietro a tutta la storia della nostra vita, alla storia della vita cristiana, della nostra vita cristiana, c'è un amore di Dio personale, c'è un chiamarci per nome. C'è lo sguardo materno di Maria. Io voglio dirvi che questi giorni li possiamo vivere tutti sotto lo sguardo materno di Maria. Uno sguardo che è sorridente. Maria ci sorride perché è nostra madre ed è felice di stare con noi. Pensate che, ecco, noi nella palla d'altare abbiamo la Madonna con il bambino e lo sfondo riprende un po' questi paesaggi, e mi ricordavo proprio ieri arrivando qui che in questo paesino, proprio in questa frazione, no? Di Galleno, di Corteno Golgi, nel 600 la Madonna è apparsa. E in uno di questi prati qui vicino, solo che non è come forse per le, mi immagino io, per l'estrema povertà degli abitanti di questa zona, non è successo come altrove. Sono tante le apparizioni di Maria, dove poi hanno costruito una chiesa, un santuario. E invece qui, solo pochi anni fa, hanno fatto una piccola edicola in fondo alla strada del paese che ricorda questo episodio. E è apparsa alla muta Lazzaroni, una giovane, una ragazzina che era lì in questi prati a guardare le pecore, ed è tornata in paese, ed era muta, ed è tornata in paese che parlava. E c'è una storia, adesso io dovrei, la mia memoria è sempre un po', si sfilaccia sui dettagli, ma mi ricordo l'essenziale, e aveva qualcosa a che vedere con la peste, con il fatto di custodire questa piccola frazione da una peste che sarebbe arrivata, qualcosa di questo tipo. E per cui noi siamo vicini a un luogo mariano, e c'è tutta una nella chiesetta qui del paese, mi pare di ricordare che è incorniciato l'attestato del notaio che testimonia questo fatto, no? A futura memoria, Per cui penso che quando è stata costruita questa casa, e prima acquistata, poi ampliata, e poi questo oratorio, non lo so se avevano presente questo aspetto, però evidentemente la pala d'altare fa riferimento, io penso, a questa apparizione. Per cui, al di là di questo dettaglio, la Madonna è sempre vicina a noi, anche se non fossimo così su una terra che è stata proprio santificata da una sua apparizione, ma per questo particolare ci aiuta. E pensate che l'apparizione ha risolto il problema di questa bambina che non parlava, l'ha guarita improvvisamente, perché lei potesse andare a portare questo messaggio. Anche in questo caso è una donna, e la Madonna anche lei sceglie, come Gesù sceglie prevalentemente le donne quando si tratta di mandare un messaggio, forse anche perché si fida che il messaggio poi corre veloce, per le qualità, diciamo, comunicative del genere femminile, per essere sicuro che arrivi, no? E anche la Madonna sceglie sì, appunto, Bernadette, ecco, tante nei fanciulli di fatto, ma c'erano anche dei ragazzini, comunque senz'altro sceglie persone povere, sceglie persone a volte anche poco istruite, così, no? Per il mondo, no? E in questo caso Gesù, nel caso della sua risurrezione, senz'altro ha scelto le donne anche in contrasto con la cultura dominante del tempo, che poi non è solo di quel tempo e di quella zona, che le metteva molto da parte, che non le considerava, che non considerava valida la loro testimonianza, pensate, no? E anche nei processi. E invece Gesù si fa testimoniare da loro. È molto bello vedere, capire, riflettere, ricordare, meditare che fin dall'inizio Gesù aveva delle donne con sé. Ovviamente i discepoli, gli apostoli hanno una prevalenza sia per la cultura del tempo, sia perché poi il Signore avrebbe scelto loro, avrebbe dato solo a loro il sacerdozio, quindi la prosecuzione del sacrificio della croce attraverso le mani dei sacerdoti nella messa, e il perdono dei peccati l'ho dato solo ad alcuni uomini, non agli uomini in generale, ad alcuni, che peraltro voi sapete, nella nostra fede cattolica si dice anche che nessuno può pretendere per sé questo privilegio, questo dono, no? E sono solo coloro che sono chiamati dal Signore, no? Per cui anche in realtà anche l'istituzione dei seminari, che è accaduta dopo il Concilio di Trento, aveva questa finalità, cioè la finalità che il vescovo potesse conoscere questi candidati, formarli e anche rendersi conto della loro idoneità, cioè del fatto che veramente ci fosse questa chiamata del Signore, no? E noi abbiamo ricordato ieri, ecco, alcuni sacerdoti ordinati anni fa e alcuni che verranno ordinati fra poco, adesso si avvicinano le ordinazioni, no? Dopo la termine dell'anno accademico, e senz'altro preghiamo per loro con molta fede, con molto affetto, ma fin dall'inizio Gesù era in questa comunità che lo seguiva, e fra l'altro questa è anche stata una originalità rispetto all'abitudine del tempo, che erano solo gli uomini che si facevano seguire da un rabbi, ma anche pensate rispetto tante altre religioni. E quindi noi, se volete, cercare Gesù, cercare il suo volto, stargli vicino in questi giorni, cercare di contemplare il suo volto di risorto, lo possiamo fare, e voi in modo particolare lo potete fare, mettendovi nei panni di queste donne che erano venute con Gesù dalla Galilea. E questi giorni possono essere anche, se lo volete, se vi aiuta, se lo Spirito Santo vi spinge in questa linea, se la Madonna, che è esperta nel ricordare tutto, perché questa è un'altra caratteristica bellissima delle donne, dei doni che Dio ha dato alla donna, perché ha distribuito i suoi doni all'uomo e alla donna che ha creato e che sono insieme la sua immagine, in modo diverso, come ben sappiamo. E la donna ha, più dell'uomo, la capacità di ricordare, cioè di conservare nel cuore memoria di tutto ciò che avviene. Infatti alla Madonna è stato affidato il compito di trasmetterci la memoria dei primi anni, anche quella memoria che viene da Giuseppe, che poi confluisce nel Vangelo di San Matteo, e quella più mariana nel Vangelo di San Luca. Allora chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare memoria di tutti i doni di Dio, in particolare, se volete, cominciamo dal dono della vita. I discepoli che vedono Gesù la sera di Pasqua, che entra nel cenacolo a porte chiuse, e poi hanno questa esperienza che Gesù, lo racconta il Vangelo di San Giovanni, no? Che soffia su di loro, no? E questa da alcuni è considerata la prima Pentecoste, la prima consegna dello Spirito Santo, no? Ricevete lo Spirito Santo. Ma anche questo soffio di Gesù su di loro significa, ricorda il soffio di Dio su quel fango che ha modellato per dare la vita ad Adamo e a Eva. Poi, e senz'altro questo soffio di Gesù sugli apostoli significa una nuova creazione, significa una consegna dello Spirito Santo, significa una potestà che loro dà di perdonare i peccati. È come se nel primo uomo Adamo, Dio Padre, soffiandoci dalla vita, e in questo secondo soffio Gesù ci dà la sua vita, una vita soprannaturale, una capacità di essere inseriti in Lui. Ecco, quindi comunque noi ricordiamo anche il primo dono, no? Il dono della vita. Questa è la Galilea più profonda, no? Dove è cominciato tutto, no? È cominciato nel grembo di nostra madre, grazie all'amore dei nostri genitori. Lì è cominciato tutto, anche se noi eravamo nella mente di Dio da sempre, eravamo nella mente di Dio da tutta l'eternità. Ci ha scelti prima che il mondo fosse, dice San Paolo, no? Perché fossimo santi nella carità. Però in quel momento, come, ecco, come è accaduto a lui, no? Che nel momento deciso da tutta l'eternità si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Così è accaduto per ciascuno di noi. In quel momento previsto da tutta l'eternità è molto bello essere nati come frutto dell'amore. Questa è una meravigliosa invenzione di Dio. Ciascuno di noi è frutto dell'amore, e questo anche per questo la Chiesa anche ci tiene a ribadirlo, no? Che è importante che l'essere umano sia frutto dell'amore e non di un'operazione di tipo di laboratorio, no? Di tipo tecnico, anche se è possibile. È molto bello essere frutto dell'amore. E allora noi siamo grati di questa Galilea dove è cominciato tutto. Fin dal seno di tua madre, il profeta ti ho chiamato, no? È consapevole che fin dal seno della madre siamo stati chiamati da Dio. Non solo, ma tutto il lavorio meraviglioso che accade nel seno della donna quando dà la luce a un bambino, quando gli dà la vita, no? È un'azione di Dio. E vi ricordate che forse vi ricordate, no? Che nel Salmo 139, che è un salmo bellissimo di lode a Dio per il dono della vita ricevuta, e nella traduzione precedente si diceva: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere. E questo è un modo di pregare che forse noi a volte dimentichiamo. Per noi è più facile pregare per chiedere, no? Oppure forse, non dico che sia più facile, ma abbiamo più occasioni di pregare per chiedere perdono, perché ci rendiamo conto che abbiamo fatto qualche disastro. Però è forse un po' meno facile pregare per lodare. E non vi dico per lodare Dio di averci creato come un prodigio, perché conoscendo noi tutti i nostri difetti, insomma, che tendiamo a vedere con più facilità che non i pregi, facciamo fatica a dire al Signore: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. E adesso la nuova traduzione ha cambiato un po', e guardate che si riferisce proprio al modo di essere generati nel seno della madre. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Si intende le profondità della terra è appunto il grembo della donna, no? Della madre. E si immagina come la terra, che è madre, dove si mette il seme e nasce, no? L'albero con tutti i suoi frutti. La terra è l'immagine del grembo materno. Ancora in forme mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non ne esisteva uno. quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Pensate che questa, l'attenzione su questo salmo e cioè, soprattutto su questo modo di pregare mi si è risvegliata grazie a un inciso di Giovanni Paolo II nell'enciclica sul Vangelo della Vita, Evangelium Vitae, quando a un certo punto lui dice: anche noi tutti i giorni preghiamo con quelle parole del Salmo, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. E allora io dicevo: anche noi chi? No? E quando? No? E allora ho pensato che questo fosse uno svelamento della preghiera del Papa. Sapete che il plurale può essere anche non solo maiestatis, ma anche modestie, no? Il plurale, lui si nasconde dietro al noi, e infatti molti non se ne sono accorti, no? Leggono, perché non c'è, questo salmo è presente nella liturgia delle ore, ma non tutti i giorni. E può darsi che ci sia qualche tradizione che incita a pregarlo tutti i giorni, ma il Papa dice: anche noi tutti i giorni preghiamo così. Quindi forse San Giovanni Paolo II ci suggerisce, per ringraziare Dio del dono della vita, di pregare così tutti i giorni. Pensate, quando ci svegliamo al mattino, no? Che magari davanti allo specchio non siamo proprio così stupendi prima di sistemarci un po'. E secondo Frossard, quando lui si guardava allo specchio al mattino, era una prova dell'esistenza del peccato originale, no? del disordine che c'è nel mondo, no? E quindi non c'è bisogno che me lo dimostri, basta che mi guardi al mattino allo specchio. Però in effetti dopo l'ordine delle cose, allora comunque fin dall'inizio noi nel cuore possiamo pregare il Signore così, e comunque in questi giorni possiamo pregarlo così, ringraziandolo del dono meraviglioso della vita e chiedendo alla Madonna e ai suoi santi che tengano sempre in noi viva questa gratitudine e questa lode.